Bologna è una delle diverse città italiane che ha dei conti sospeso intanto con il governo, perché l'ANCI ha richiesto 560 milioni di euro di mancati trasferimenti proprio ai comuni. In questa manovra queste risorse non ci sono, ma anzi si permette ai comuni di alzare le tasse, quindi di fatto il primo messaggio del governo è: se avete bisogno di soldi potete alzare le tasse e non vi diamo le risorse che vi dobbiamo. Questo è un principio generale di questa manovra che ovviamente è molto pericoloso. Dall'altro si tagliano risorse su diverse partite culturali, dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Il nostro teatro comunale ha appena avuto un taglio di 900.000 euro, fondi diretti ai teatri di base o alle associazioni di quartiere che fanno attività culturali da sempre riconosciute dal governo, diverse centinaia di migliaia di euro. Il bando periferie, sul quale Bologna aveva ottenuto 18 milioni di euro, dei quali 8 da dedicare alla realizzazione del nuovo archivio della Fondazione Cineteca, anche queste risorse sono sparite e le promesse non vengono mantenute. In generale c'è un taglio molto importante su tutti i settori dell'editoria, del cinema e anche dei fondi alle attività sui servizi culturali che ricadranno su tutti i comuni, non solo sul nostro. Secondo lei un'analisi un po' più politica, nel senso rispetto anche alle manovre del governo precedente, c'è una totale inversione di marcia nel senso dei finanziamenti alla cultura o c'era già comunque appunto un arretramento che questa manovra in qualche modo conferma, diciamo? No, io penso che il governo precedente sulla cultura abbia investito sia il governo che ad esempio la regione Emilia-Romagna, che nel corso dell'ultimo mandato ha triplicato i fondi alla cultura. C'è un discorso duplice da parte di questo governo: dall'altro, da un lato, lo spostamento di risorse su altre destinazioni, su altre politiche culturali, e questo è legittimo perché chi entra poi eletto dai cittadini può decidere ovviamente di cambiare anche delle politiche. Ad esempio 20 milioni dedicati all'app per i diciottenni, che è questo servizio di fatto per l'acquisto di 500 euro per i diciottenni per libri, manifestazioni culturali e spettacoli, che era stato introdotto dal governo Renzi. Questo governo decide di tagliarli e dedicarli ad altro. Bisogna capire su cosa, perché questa proposta non c'è. Intanto si segna un meno 20. Il governo dice: per fare altro aspettiamo di capire che cos'è questo altro. Poi c'è una riduzione complessiva di alcune misure, come queste degli incentivi sull'editoria o sulle sale cinematografiche, che era una misura che era stata introdotta dal governo precedente. Quindi il governo precedente aveva introdotto delle misure anche interessanti, in particolare per il settore delle imprese culturali. Purtroppo ricominciare da capo, come molti governi fanno, non farà bene a chi lavora in questo settore. Un'ultima domanda, intanto aspettando appunto di vedere se poi come verrà approvata definitivamente questa manovra, però intanto quali sono le previsioni per i prossimi anni nel settore della cultura a Bologna? Il settore culturale a Bologna è in crescita, come in tutta la regione Emilia-Romagna. Questo non solo per i finanziamenti pubblici, ma anche perché l'economia è ripartita e il settore della cultura, delle imprese creative, è uno dei settori che sta andando meglio. Quindi le previsioni sono positive. È chiaro che la riduzione dei finanziamenti pubblici, l'incertezza anche sulla programmazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, pensate che il taglio del teatro comunale di 900.000 euro è arrivato a fine anno, non a inizio anno, quindi nessuna azienda può rimanere in piedi se ha un budget che si decide alla fine, non all'inizio quando si programma. Questa incertezza rischia di pregiudicare questi buoni risultati raggiunti e anche un recupero della disoccupazione che si era avuto su questo fronte.